cari signori qua, e cari signori qua, dove siete belli, e casi nati in gamba, e casi nati in gamba alla marina, e l'umari che bella, e come la rosa ru, e come la rosa ru, sa lui giardino, e si ti padrone di, e si ti padrone di, quattro castelli. E Napoli spegne pa, e Napoli spegne pa, l'erme missino. E muovi con me, nena, te muovi con me, nena, c'è cosa bella. E chi la chitene bi, e te chi la chitene Chi se lo patrona.